ci sarà un motivo di politica editoriale, un problema di diritti d'autore, qualcosa del genere. Se il volume di poesie di Eugenio Montale distribuito questa settimana ai lettori del Corriere della Sera, stampato in parecchie centinaia di migliaia di copie, forse la più grande tiratura di un libro di poesia contemporanea che si sia mai avuto nel paese, ci sarà un motivo se quel libro non è composto né da un'antologia ragionata delle opere del poeta, né da una o più delle raccolte che più di tutte ne esprimono in prospettiva storica la personalità. Di fatto i lettori, molti dei quali si dovranno supporre nuovi all'esperienza della poesia del Novecento, non vi troveranno né i versi degli Ossi di Sepia né quelli delle Occasioni. Come dire che, a parte quelle due o tre composizioni che probabilmente hanno già avuto modo di incontrare sui libri di scuola, non leggeranno né la definitiva dichiarazione di poetica dei Limoni, né quelle straordinarie liriche che sono, per dire, Dora Marcus o La casa dei doganieri, né in definitiva nessuna delle poesie che hanno fatto grande Montale. In compenso avranno nella loro interezza due raccolte che non dirò certo minori, anche perché non sono qualificato a esprimere un giudizio del genere, ma certo due raccolte di non facile accesso. Se La bufera e altro, che è del 56, rappresenta un tentativo di superare alla luce del vissuto degli anni di guerra l'impostazione delle due prime raccolte, e va letta quindi in stretto rapporto con quelle, in Satura, che ruppe nel 71 un lungo periodo di silenzio, si può vedere persino una rinuncia alla poesia in senso stretto, un rifugiarsi definitivo e sofferto tra le mura sicure della letteratura intesa come gioco verbale e riferimento erudito. E visto che proprio Satura e La bufera sono state offerte alla massa dei nuovi lettori, è lecito chiedersi quale immagine essi si potranno fare di quel maestro. Giovanni Raboni, nella prefazione, cerca bravamente di giustificare la scelta, ma si capisce che il primo a non esserne convinto è lui. Ora, può darsi naturalmente che il mio sia un tipico modo da ragionare da ex professore, di quelli che non riescono più a porsi di fronte ai testi in sé, ma li vogliono inquadrati, contestualizzati, pedantemente distinti in maggiori e minori. Me ne scuso. Ma può darsi anche che la contraddizione di cui sopra sia la spia di una scelta d'altro tipo, e forse a chi ha proposto quel volume ai lettori, e si tratta di una specie di teaser, di un assaggio gratis per invogliarli a provvedersi a pagamento nelle settimane successive di tutta una collana di lirici del Novecento, a chi ha proposto quel libro, della capacità d'accesso dei lettori al testo interessava pochissimo. Oppure, se posso avanzare un'ipotesi ancora più perfida, quel signore era convinto che ben poco sarebbe interessato anche a loro. Mi spiego. Nella massa di offerte promozionali che gli piovono addosso di questi tempi, in questa specie di orgia di romanzi contemporanei, classici dell'Ottocento, saggi storici, repertori vari, cassette, DVD e chissà che altro, in cui gli editori si sforzano di trascinarlo, è difficile supporre che l'odierno acquirente di quotidiani possa scegliere in base a un suo programma di consumi culturali. Quando un paio d'anni fa è cominciato il fenomeno dei libri occlusi ai quotidiani, con le proposte parallele di narrativa contemporanea di Repubblica del Corriere, e forse era ancora possibile fare una certa scelta. Erano quei volumi delle riedizioni economiche, se non economicissime, di opere di successo, presentate senza particolari venocini editoriali, dei libri solidi ma maneggevoli, ben rilegati ma non particolarmente lussuosi, testi destinati con tutta evidenza a essere letti da chi non li conosceva ancora, perché non ad uso le librerie o per altro motivo, ma poteva comunque sentirsi invogliato a conoscerli. Col tempo però, infuriando la concorrenza, l'offerta si è modificata. Essendo a proposito, oltre che di strappare lettori ai rivali, quello di fidelizzare, come ovviamente si dice, la clientela, si è passati dai singoli titoli indipendenti alle serie. Enciclopedia in 20, 22, 24 tomi, corredate da atlanti edizionari, storie e antologie in più volume, sillogi di barbosissimi classici con prefazione erudita, che opere forse di incerto appello alla lettura, ma impreziosite e rese appetibili da un'impostazione editoriale su, con tanto di cofanetto telato, segnalibri a nastro e altri orpelli da biblioteca. oggetti da collezione in sostanza. Non testi da consumare, ma volumi da allineare sugli scaffali appositi, e guai se se ne perde uno, perché, come con le raccolte dei francobolli, basta una lacuna per far crollare il valore dell'insieme. Ora, è caratteristica di simili prodotti quella di prescindere quasi del tutto dalla figura del lettore. Perché chi mai, salvo qualche maniaco, si metterà a leggere pagina dopo pagina, non dico un'enciclopedia, ma un'antologia, mettiamo, di poeti barocchi? Sono libri di consultazione, che si mettono lì e lì si dimenticano, salvo l'ipotesi di una riesumazione opera di cultori di cruciverba o ragazzini costretti alle ricerche scolastiche. E fin troppo ovvio che l'editore faccia conto per piazzarli tanto sul contenuto quanto sulla veste esterna, quella che ne farà comunque degli utili oggetti d'arredamento. Il che può spiegare una certa indifferenza alle problematiche del rapporto con il pubblico cui l'opera è destinata, come a dire che quelle della stessa funzione culturale della medesima. Un volume composto dalla bufera e da satura non potrà aiutare più che tanto il neofita a entrare nel mondo poetico di Montale, ma per fare pandante in biblioteca con analoghe raccolte di Neruda, Hickman, Dylan Thomas o chi altri, naturalmente va benissimo. Certo, trovare i libri in edicola è una bella comodità, scagli la prima pietra a chi non vi ha mai fatto ricorso, ma i libri sono cose strane, bisogna saperli scegliere, bisogna cercarli perché se ne sente il bisogno, bisogna considerarli elementi di un proprio personale progetto di arricchimento. Che questo sia possibile grazie alle offerte promozionali dei quotidiani, è davvero una cosa tutta da dimostrare.